si sente spaesato da una specie di incredulità. Sente di non avere certezze, pur se ne fanno la svendita, dagli show in TV della sera alle secche della virtualità, dove spirano le opinioni con la loro stoffa generica. Si chiede come si potrà mai fare perdersi vita e rintracciare le anime belle salve che cantava De André, perché rifiuta di accettare di essere l'unico anormale. Ma come si può fare a rintracciare le anime che ti son simili? Paolo odia ciò che accade nella quotidianità, negli uffici o per le strade, la gente non lo stimola. Lo scenario è un melodramma di artificiosità, con inserti di forzata, vuotaggine. Si chiede come si potrà mai fare perdersi vita e rintracciare le anime belle salve che cantava De André, perché rifiuta di accettare di essere l'unico anormale. Ma come si può fare a rintracciare le anime che ti sono simili, perché sensibili, molto meno fragili di chi tutto crede di sapere.